se volete completare l'incipit di Andrea Denari, di Andrea Vitali per i denari. Sì che l'abbiamo colto in castagna, commissario Carbone, prontissimo. Ma in arrivo. Come si fa? Carbone, nome, una garanzia. Dottor colesterolo, dottora Volley. Dottora Volley. Lei non è Sant'Antonio da Padova. No, io sono Gianni. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Matching, Share and Grow. Un percorso innovativo e concreto per lo sviluppo di piccole, medie e grandi imprese. Una piattaforma per la crescita e la condivisione del business. Attraverso incontri ed eventi. Creando una solida rete di imprese, istituzioni e professionisti. E in questo percorso, buongiorno a tutti, in diretta da Matching da Deborah Rosciani, in questo percorso dicevamo ci inseriamo anche noi di Cuore e Denari. Siamo molto contenti di farlo, di incrociare di nuovo le nostre strade con questa iniziativa, in particolare con questo evento Matching Live da cui oggi vi trasmettiamo. Siamo in diretta dalla Fiera di Milano RO, padiglione 22, stand 01, per chi volesse venirci a trovare in questi giorni. Cuore e Denari sarà in diretta oggi e domani da questo evento insieme a molti altri programmi di Radio 24. Dopo Cuore e Denari, peraltro, ci sarà alle 13 anche Simone Spezia con Effetto Giorno. Uno spazio innovativo che vuole favorire l'incontro e il dialogo fra molte realtà imprenditoriali italiane, un programma ricco, tante le occasioni per riflettere e stimolare la diffusione delle opportunità, le occasioni di lavoro, perché l'unione fa la forza. Questo motto può anche apparire scontato, ma in realtà lo possiamo ritrovare nelle tante storie delle imprese che hanno saputo fare, che stanno facendo rete. Di questo parleremo oggi, capiremo come questo tipo di opportunità tocchi molto da vicino tanti di noi, piccoli imprenditori e tutti coloro che ci ascoltano e che nelle piccole imprese, che sono il nostro tessuto produttivo, il nostro scheletro produttivo, hanno vissuto questi anni di crisi, non solo come imprenditori ma anche come dipendenti e poi lavoratori autonomi, toccando con mano le fatiche, le difficoltà ma anche le risorse che si possono tirare fuori. Certo, fare rete non è facile. Saper lavorare in gruppo è una delle prerogative più cercate e più richieste dalle aziende e questo è quanto emerge anche dai dati pubblicati dall'Istituto di Ricerca Economica McKinsey. Saper fare squadra, saper collaborare diventa molto importante, ma non è sempre facile perché c'è chi fatica a mettersi in gioco e preferisce giocare da solo. Voi allora vi chiediamo sul lavoro come siete? Siete più individualisti o date il meglio quando giocate in squadra? Della serie si vince o si perde tutti insieme? 800 24 00 24, raccontateci la vostra esperienza quando anche in qualche maniera il fatto di aver deciso di fare rete ha salvato la vostra iniziativa imprenditoriale. Noi di tutto questo parleremo anche nella seconda parte del programma. Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po', e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. L'anno che verrà, questo 2015, che vedrà proprio il luogo in cui ci troviamo essere al centro di tante attenzioni con Expo, è la prospettiva a cui vogliamo guardare nel coinvolgere stamattina i nostri ascoltatori, che invitiamo a prenotarsi come sempre all'800 24 00 24. Allora raccontateci, siete imprenditori piccoli, imprenditori o anche liberi professionisti? Vogliamo chiedervi come guardate a questo 2015 in modo positivo e propositivo, come pensate che possa essere per voi un buon anno, cosa volete cambiare nel nuovo anno che arriverà fra poco più di un mese, a partire da voi, indipendentemente da tutte le difficoltà che possono arrivare dall'esterno, perché sono tante le rimostranze, diciamo così, che si possono fare alle banche, allo Stato, ma nel frattempo si può partire anche da se stessi, dal proprio percorso. Luca Castagnetti, nostro primo ospite di oggi, ci ha raggiunto nel nostro studio qui appositamente allestito per partecipare a questa iniziativa, presidente della Compagnia delle Opere Veneto, partner studio impresa, esperto CDO. OP per le reti, fa un sacco di cose, però insomma la cosa importante è che lei stamattina ci metta a disposizione la sua preparazione, la sua professionalità, proprio anche per suggerire a chi ci vorrà raccontare la propria storia come si fa a fare rete. Intanto buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti e ai suoi ascoltatori. Parlando del 2015, tra qualche settimana tutti ci scambieremo gli auguri. E quindi è una buona domanda domandarsi che cosa dovrà accadere, che cosa potrà accadere nel 2015 affinché ciascuno di noi possa dire che sarà un anno diverso, più buono di quelli che ci hanno preceduto. Per cercare di essere concreti, lei giustamente diceva, guardiamo quello che può dipendere da noi, senza guardare da delle condizioni esterne, banche, leggi, politica, organizzazione dello Stato. Essendo vivendo nel mondo dell'impresa, perché io sono un commercialista, quindi vivo con le imprese, avere una responsabilità, vivere una responsabilità significa rispondere a qualcuno che si chiama mercato. Le imprese ci sono perché ci sono i clienti. Certo. Oggi diciamo che il mercato è in crisi, ma è una definizione che non ci possiamo più permettere. Dobbiamo dire che è diverso, sicuramente più competitivo. Quindi io mi auguro che tutti possano comprendere meglio il loro mercato, conoscere i loro clienti e quindi focalizzare le loro attenzioni nel 2015 per imparare a essere, certo, più competitivi. Diciamo che deve esserci certamente anche una forza di carattere emotivo. Prima, ecco, intanto stiamo sentendo qualche annuncio, come sempre ci capita quando partecipiamo a queste esterne con Radio 24. Ci vuole energia, ci vuole motivazione, ci vuole anche un po' di forza economica, il sostegno finanziario delle banche naturalmente, anche per mettersi insieme, certamente fondamentale. Mi chiedo, le anticipo già una domanda che avrei voluto farle nel corso della trasmissione, ma l'anticipo già, perché lei ha scritto questo bel diario di viaggio in un'Italia che vuole lavorare e cambiare. Proprio banalmente ha fatto l'elenco di tutte le iniziative alle quali partecipa, qual è il sentimento anche che incontra fra gli imprenditori che le chiedono suggerimenti per questo fare impresa. Lei in questo momento che sensazioni sta trovando in giro? In giro incontro spessissimo degli imprenditori che si rendono conto che il contesto in cui la loro impresa è inserita, ciò che fino a qualche tempo fa sembrava acquisito, non funziona più. E in questa iniziale confusione percepiscono che per ritornare ad essere competitivi hanno bisogno di qualcosa che la loro singola impresa non ha, e quindi solo attraverso una precisa, leale, costante collaborazione con altre realtà, contratti di rete, consorzi, nelle varie forme che oggi la legislazione ci permette, certo, di aggregare, attraverso questa possibilità c'è la capacità di capire meglio il mercato, questo lo sottolineo, e quindi di imparare anche a non partire sempre da quello che siamo capaci di fare, perché il problema delle piccole e medie imprese di oggi è che partono da un saper fare che ha fatto grande le nostre imprese in questi secoli, potrei dire. Possiamo tornare indietro a questo saper fare, abbiamo le cose più belle al mondo, ma questo saper fare oggi in un contesto così competitivo mondiale non è sufficiente. E per capire come passare da un saper fare a un saper rispondere a un mercato, a un cliente, c'è tanta strada, e la singola impresa, se non è poi particolarmente strutturata, ma anche fosse strutturata, ha bisogno di un percorso complesso. Certo. Insieme si può fare meglio. Allora, continuate intanto a scriverci alle 349-238-6666, oltre che a prenotare i vostri interventi all'800-24-0024. Condividete con noi i vostri buoni propositi per il 2015. Vi stiamo già lanciando questa sfida con netto anticipo sul previsto, perché insomma non è neanche dicembre, per cui immagino, però chissà in quanti già stanno gettando uno sguardo all'anno prossimo con anche buoni propositi di questo tipo, imprenditoriali se volete. Magari qualcuno purtroppo è rimasto a spasso dopo una vita da dipendente, vuole cimentarsi anche nella libera iniziativa, nell'impresa appunto individuale, chissà come si sta guardando attorno. Allora, se siete in questa condizione in questo momento, raccontatecelo al nostro numero verde. Anno nuovo è sinonimo di cambiamento, e per un'impresa guardare al futuro in questo momento non può che chiedere cambiamenti continui e profondi. Allora chiedo un commento iniziale anche al nostro secondo ospite, il professor Andrea Mezzadri, professore di economia aziendale all'Università Cattolica del Sacro Cuore, e anche lei ha fondato Altis E4 Impact Italy Manager. Sì, no, lei è manager di questa iniziativa, sì, ecco, sì, esatto. Ha fatto un po' di confusione. Che cos'è intanto questa organizzazione? Innanzitutto buongiorno a tutti. Io, oltre ad essere docente di economia aziendale, quindi al primo anno del percorso di studi in economia presso l'Università Cattolica, sono anche manager di Efori Impact Italy, che è una divisione di Altis. Altis è un'altra scuola della nostra, del nostro Ateneo, in modo particolare quella che si occupa, altra scuola, imprese e società, di sviluppare un concetto di management, di implementare un concetto di management e di imprenditorialità attento anche al sociale, all'ambientale. Perché quindi, naturalmente, una volta che uno ha fatto rete, magari si è convinto dell'intraprendere questo percorso, poi chiaramente bisogna sfoderare forse anche nuove qualità manageriali, no? Assolutamente, e penso che questa crisi che ormai da anni sta attanagliando la nostra economia debba diventare un'opportunità, e una delle strade primarie per uscire è sicuramente quella di una nuova imprenditorialità attenta anche ai bisogni sociali e ai bisogni ambientali, quindi un modo diverso di fare impresa che tenga in considerazione non soltanto le istanze dell'imprenditore, che sono ovviamente legittime, ma anche quelle di tutta un'altra serie di soggetti che attorno a questa impresa ruotano. Allora, di tutti questi aspetti, appunto, come vi dicevo, parleremo fino alle 12.30. Facciamo però anche un piccolo passo indietro, perché vorrei spiegare ai nostri ascoltatori qual è il contesto nel quale ci troviamo oggi, senza dare per scontato che tutti conoscano Matching. Mi faccio aiutare appunto da Castagnetti a raccontare che cos'è questa iniziativa, questo luogo di incontro per le piccole imprese, un percorso che peraltro va avanti da 10 anni, celebrato quest'anno con la presenza di Radio 24, quindi mi sembra il caso di valorizzare anche questo aspetto. Sicuramente anche la vostra presenza facilita e aiuta a far conoscere un'esperienza che è giunta al 10° anno, ha visto anche un profondo cambiamento, è cambiata la realtà, è cambiato anche il matching. In questi giorni oltre 1000 imprese si vedono coinvolte in una quindicina di aree. Abbiamo chiamato delle aree omogenee di interesse, andiamo dall'energia, l'information technology, meccanica, food, marketing, finanza, passando per il turismo, quindi uno spaccato della nostra realtà imprenditoriale, delle nostre imprese. In questi 3 giorni è una tappa, la chiamiamo Matching Live, nel senso che le relazioni nate nelle precedenti settimane qui assumono una fisicità, gli imprenditori si incontrano. C'è stata una tappa di avvicinamento, le aziende si sono preparate, hanno fatto un focus sui loro progetti di sviluppo, hanno identificato gli elementi necessari per sviluppare i loro progetti. In questi 3 giorni cercheranno di conoscere le persone, attuare relazioni con leader di mercato, conoscere i trend del loro mercato, conoscere dei colleghi, trovare delle forme di collaborazione, sviluppare il loro business. Certo. Oltre ai 300 workshop e seminari in 3 giorni, quindi un'attività intensissima che si basa sulla conoscenza e sulla relazione. Si diventa competitivi, se c'è competitività c'è capacità di guardare il mercato e anche poi di sviluppare clienti e fatturato. Sono rappresentati tutti i settori produttivi o c'è qualcuno che manca all'appello e che magari c'è qualche comparto che non crede a questa necessità di fare rete e all'importanza di fare rete, secondo lei? Guardi, direi che i principali comparti sono veramente tutti rappresentati. Dalla parte produttiva, chiamiamola così, quindi le industrie meccaniche in tutte le loro forme, all'edilizia, all'agroalimentare, alla parte servizi, dal bancario al marketing, all'assicurativo, allo sviluppo delle imprese e all'attività di consulenza, al turismo. Quindi ci sono veramente tutti i settori principali dell'economia italiana e molte presenze straniere, perché diciamo l'internazionalizzazione è sicuramente uno degli aspetti più rappresentati al matching. Uno step veramente, quello dell'internazionalizzazione, è molto importante, perché poi magari anche un po' il più restio dei piccoli imprenditori riesce a convincersi a fare rete, poi però il passo per andare all'estero è tutto un altro paio di maniche. Allora, professor Mezzadri, abbiamo capito così dai commenti che Castagnetti ha fatto fino a questo momento che la voglia di fare rete in questi anni è certamente aumentata, anche per il fatto che in qualche maniera per qualche impresa è stata certamente una tappa obbligata, ma invece la voglia di fare rete è aumentata, la voglia di fare impresa secondo lei? Cioè nel momento in cui magari anche chi non ha la vocazione magari del dipendente e cerca di lanciarsi sul mercato con un'iniziativa individuale, oggi è scoraggiato da questa burocrazia che è asfissiante ed è la principale causa anche qualche volta di chiusura delle aziende? Ma guardi, io da questo punto di vista parlo da un osservatorio in qualche modo privilegiato, nel senso che io seguo tutta la serie di iniziative che il nostro Ateneo pone in essere a favore delle start-up, quindi delle nuove iniziative, soprattutto da parte di giovani studenti nel caso in specie, e vedo invece che c'è una grande fioriera di iniziative, vedo proprio la voglia di fare impresa, anche se mi chiedo spesso il perché, nonostante appunto il contesto esterno sia in termini di burocrazia che di altro non sembra sicuramente incentivarlo, e mi sono dato quattro possibili risposte. La prima è, se vogliamo, negativa, nel senso che faccio impresa perché non ho altro da fare, quindi l'ultima ratio di fronte all'inoccupazione. C'è un elemento di emulazione rispetto ad alcuni miti che stanno in qualche modo prendendo piede, Zuckerberg con Facebook e quant'altro. C'è un elemento tecnologico, per cui oggi veramente con un computer è sufficiente aprire un'impresa tecnologica, e quindi è un po' il corrispondente del martello e del tornio di una trentina d'anni fa come elemento di semplicità nell'ingresso nel mondo dell'impresa. Ma soprattutto vedo una forte voglia di mettersi in gioco da parte dei giovani, e anche a una crescente attenzione ai problemi sociali, quindi l'impresa che diventa un modo per dare una risposta di mercato a dei problemi sociali che purtroppo affliggono il nostro tempo. Quindi, però, insomma, da quello che mi ha detto fino a questo momento, chi tenta la strada della libera impresa lo fa nel settore tecnologico, e in quali comparti tradizionali? Ma io purtroppo appunto questo è l'elemento negativo forse della situazione, che anche sulla base di questo spirito emulativo di cui parlavo prima, c'è una forte concentrazione di idee nell'ambito dell'ICT, quindi app, siti di incontri, di matching appunto, siti per fare rete e quant'altro. Secondo me invece si potrebbe utilizzare la tecnologia come strumento abilitante per rilanciare dei settori o dei mestieri tradizionali. Questo è il passo successivo che secondo me il nostro paese deve fare per valorizzare quella tradizione manifatturiera e di mestieri antichi che ha e penso sia unica al mondo. Certo, sentiamo che ne pensano i nostri ascoltatori di tutto questo all'800 24 00 24. So che fra poco ho il collegamento sui mercati finanziari, però prenderei subito la prima testimonianza di oggi, che è quella di Alessandro da Bergamo, che salutiamo. Benvenuto. Buongiorno. Eccoci. A tutti, vi do anche io i miei complimenti come al solito, ma per guadagnare subito tempo volevo dare un po' di esperienza diretta in tutti e tre gli ambiti. Ottimo. Uno, l'ultimo, quello che ha detto delle persone, i giovani che si vogliono mettere in discussione facendo molte selezioni per quanto riguarda il comparto commerciale, quindi ricerca di agenti, tanto per intenderci, un discorso sicuramente per me di cultura proprio a livello nazionale. Cioè, mia mamma, quando mi ero laureato, se gli dicevo che andavo a lavorare a fare l'impiegato in comune ero il migliore del mondo, se gli dicevo che andavo a fare l'agente di commercio ero un fallito, no? C'era un po' anche questa cultura che noi ci portiamo insomma, dietro. Le nostre mamme, senza offesa per l'azienda che citerò, vorrebbero tutti impiegati alle poste praticamente, il posto di lavoro sicuro, la tredicesima, la quattordicesima, no Alessandro, quindi bisogna fare un po' di sforzo di carattere culturale, però forse i giovani nostri sono pronti, lei non crede? La battuta che faccio, la mia generazione di 47 anni, che la dico sempre con la battuta, siamo passati in un anno da bamboccioni a vecchi, vedo i giovani migliori di quando ero giovane io, anche se mi considero giovane, forse perché avendo la crisi nella testa non si aspettano niente dall'altro. Per quanto riguarda le aziende, vi lascio subito il tempo, sicuramente io ad esempio con la mia che sviluppo siti web e faccio servizi di posizionamento per i siti delle aziende, anche io quando ho dovuto reinventarmi per la crisi, faccio l'esempio per la parte produttiva, che per fare tutti i servizi, offrire tutti i servizi a un'azienda, se li avessi avuti tutti in casa io, le persone specializzate, non avrei potuto sopportare i costi, no? Essendosi diversificata l'offerta di servizi. Quindi lei ha fatto anche la sua rete, Alessandro. Mediante partnership noi abbiamo tre linee di servizio, mettiamo una l'ho tenuta e l'altra logicamente ho fatto partnership sfruttando chi aveva meno potenza commerciale e più potenza produttiva. Questo è un esempio di aziende che si mettono assieme, dove in questo caso hanno fatto sinergia, noi eravamo più forti commercialmente, loro dal punto di vista tecnico, però loro non avevano abbastanza fatturato per pagare gli stipendi ai loro, noi avevamo il fatturato ma magari non volevi inserire subito delle persone a tempo indeterminato. Questo Alessandro, grazie per la sua bella e vivace testimonianza. Castagnetti, in 10 secondi la vuole commentare? Sì, sicuramente l'ascoltatore ha raccontato un'esperienza che incontro spesso, aziende complementari tra di loro che riescono a mettere insieme un progetto comune. In questo l'internazionalizzazione, lo sviluppo di una nuova tecnologia, l'affronto di nuovi mercati rappresenta spesso lo scenario in cui chi è più forte nel commerciale, chi è più forte sull'aspetto produttivo, chi ha una buona logistica, chi ha uno spirito particolarmente innovativo, laddove esiste un obiettivo comune, e sottolineo molto questo aspetto, laddove si riesce ad esplicitare un obiettivo comune, ad allineare le organizzazioni delle singole imprese su quell'obiettivo, allora anche delle opportunità che sono così logiche e semplici quando le ascoltiamo si riescono a realizzare. Cuore e denari. Il gruppo è qualcosa di più e di diverso dalla somma dei suoi membri. Ha una struttura propria, fini peculiari e relazioni particolari con gli altri gruppi. Può definirsi come una totalità dinamica. Kurt Lewin, psicologo tedesco. Fare rete, fare gruppo, fare squadra, scegliete voi la definizione che più vi piace. Comunque sia, questa modalità di lavoro sta diventando sempre più importante, perché i compiti da affrontare sono tanti e complessi, che nessuna persona ha tutte le capacità necessarie per portarli a compimento da solo. Appunto, l'unione fa la forza, ma bisogna saperla creare, e non è sempre facile. Nella seconda parte della nostra trasmissione vedremo come, con consigli pratici dei nostri esperti, si possono aumentare le potenzialità e sviluppare al meglio i vari talenti di un gruppo. Cominciate anche su questi aspetti a prenotare i vostri interventi all'800 24 00 24. Scegliersi è il viaggio più pericoloso, perderci insieme un salto senza rete. E noi invece oggi in diretta da Matching non stiamo parlando di fare un salto senza rete. Con i nostri ospiti ci stiamo occupando di imprese, di quelle che riescono a fare rete, che ne hanno la forza economica, emotiva, la volontà, e reti che permettono alle imprese di fare salti in avanti con più forza, progettualità, insomma si uniscono, si fa sinergia senza rinunciare alla propria identità, perché poi questo è un aspetto importante. Ne discutiamo stamattina con Luca Castagnetti, presidente della CDO del Veneto, e il professor Andrea Mezzadri, professore di economia aziendale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Adesso sentiremo un ascoltatore di Treviso un po' scoraggiato. Volevo anche leggere un messaggio di un piccolo imprenditore informatico. Ci racconta la sua storia e dice: vedo in Italia solo la mancanza di denaro da parte dei clienti. Si possono fare tutte le reti che volete, ma tra l'80% di tasse dirette e indirette e il mercato morto, mi trovo costretto a chiudere, ad andare all'estero con l'azienda, lasciando a casa i due dipendenti. Siate realisti, non date illusioni. Castagnetti, nel suo giro per l'Italia, in cui incontra moltissime realtà imprenditoriali piccole, ha trovato spesso anche questo scoraggiamento, e qualcuno che dice: ma insomma, ma che cosa ci sta raccontando Castagnetti? Che cosa vuol dire fare rete? Noi non ci crediamo, è solo un'illusione. Guardi, ho incontrato decine e decine di imprenditori così scoraggiati, ma altrettanti di imprenditori che, accanto alla parola realismo, e sicuramente quello che l'imprenditore, l'ascoltatore diceva, tasse molto alte, banche che difficilmente danno credito, io faccio il commercialista, i miei colleghi in studio affrontano tutti i giorni tematiche legate alla parte fiscale, alla parte, certo, delle banche, quindi sono assolutamente dentro una realtà che è la realtà che spesso è proprio come l'ascoltatore ha descritto. Però insieme al realismo serve anche l'audacia. E oggi ritengo che questa sia una caratteristica di molti imprenditori che incontro, cioè la capacità anche di guardare il proprio lavoro, fosse anche un lavoro tradizionale. Qui non stiamo parlando di start-up innovative, di digitale, cosa che peraltro è interessantissima e dà molte prospettive. Vi faccio un esempio, parliamo della cosa più antica del mondo, del pane. Allora, io sto seguendo una rete, la Corte dei Fornai si chiama, ed è una cosa veramente straordinaria. Immaginate un lavoro antico, fare il pane. Oggi parliamo di imprese con 5, 10, 15 dipendenti, quindi non proprio il fornaio sotto casa, ma delle piccole imprese. comunque così piccole, in cui l'imprenditore si alza alle 3, alle 4, esatto, tutti i santi giorni. Anche le 2, direi. Anche le 2, quindi lavora con il suo gruppo, consegna il pane, quindi sono strutture spesso molto semplici, non hanno una particolare vocazione commerciale, hanno dei contratti di acquisto giornalieri o con il proprio negozio o perché con il supermercato. Perché è stato necessario per questo gruppo che lei ha incontrato fare rete, dove dovevano ottimizzare, diciamo, la loro attività? Avevano una visione che è quella che il consumo del pane sta diminuendo e quindi a favore dei crackers, di tutti quanti altri prodotti più comodi, sempre disponibili rispetto al pane fresco. Loro sanno che il mercato sta diminuendo e di conseguenza si chiedono, nei prossimi 5 anni, siccome io voglio esserci, siccome io non voglio andarmene, siccome questo è il mio lavoro, che cosa devo cambiare? Questa è la vera domanda. Loro hanno detto: dobbiamo diventare più competitivi. Come? In due modi. Uno, comprando meglio. E quindi si sono messi insieme e la prima cosa che hanno fatto sono stati dei contratti di acquisto con delle farine, dei lieviti e di altro. In questo hanno realizzato degli importanti sconti, perché oggi la capacità di acquisto dei piccoli imprenditori è assolutamente lontana da quella delle più grandi centrali di acquisto. Loro sono riusciti a fare questo, niente di nuovo, però l'hanno fatto. La cosa interessante è stato che hanno investito questo risparmio nell'andare a scegliere con un consulente marketing, con attività che per loro erano totalmente sconosciute, quali all'interno dei prodotti, chiamiamoli da forno, confezionati, perché ogni forno fa il pane ma poi fa anche degli altri prodotti, c'è chi fa i grissini, c'è quello di Trento che fa lo strudel, quello di Mantova che fa altri dolci tipici. Hanno scelto, aiutati da persone esperte, un catalogo di prodotti e adesso hanno marchiato questi prodotti, certo, hanno fatto un marchio, diciamo, di marketing anche per studio di marketing, quindi ognuno, ogni rete distributiva vende i prodotti dell'altro e quindi ognuno adesso si specializza su quel prodotto, certo. Ma stanno anche andando all'estero, si figuri, un panificio che vendeva sotto casa sta pensando come vendere i prodotti all'estero. Questa è audacia. La ringrazio molto per aver raccontato questo esempio, perché appunto ci dà la dimostrazione di come effettivamente, come per esistere in questo momento così complicato, non è necessario fare la app, no, professor Mezzadri, come dicevamo prima, e ribaltare la propria esistenza grazie ad una invenzione di carattere tecnologico, ma su settori tradizionali ci si può ancora puntare. Io a proposito di best practice, di casi invece di eccellenza, comunque che danno la spinta per andare avanti, volevo raccontare una startup che ho conosciuto qualche anno fa nella competizione che seguo direttamente, e un gruppo, anzi due ragazze milanesi che stanno studiando a Milano, che hanno messo a punto una modalità per ottenere dagli scarti di agrumi, quindi un prodotto assolutamente made in Italy al 100%, certo, dei tessuti. E attualmente sono partite, sono in fase di prototipazione, quindi probabilmente entreranno sul mercato a breve e stanno valorizzando quello che è uno scarto alimentare, perché stiamo parlando poi degli agrumi che altrimenti sarebbero destinati al macero, eccetera, lo stanno trasformando in una risorsa importante per andare sul mercato e probabilmente con un respiro già internazionale in partenza. Incredibile. Mi stavo chiedendo, naturalmente quando si fa rete d'impresa, ammettendo che 10 aziende si consorzino, insomma si mettano insieme per affrontare con maggior forza il mercato, ci sarà quel momento in cui si deve discutere chi guida un po' tutta l'operazione, no? Professor Mezzadri, lì in quel momento quali sono le doti che bisogna sfoderare per resistere anche di fronte magari a iniziative che altri prendono e che non vengono condivise? Bisogna fare anche un po' di zen da questo punto di vista. Assolutamente, è molto importante, e la capacità di gestire e di lavorare in gruppo è fondamentale, e anche quella di superare l'individualismo che è un po' tipico del nostro paese, che è il paese dei mille campanili, per cui lo vedi, io vengo da una città di provincia come Piacenza, per cui molto spesso i due paesi vicini non collaborano, preferiscono rimanere due piccoli per non collaborare, per la paura di cedere la leadership. Io penso che sia necessario un cambio culturale che nelle nuove generazioni vedo di più, certo, perché vedo già una predisposizione, certo, a lavorare in gruppo, e un'apertura, perché di fatto l'incontro può essere comunque un'opportunità, quindi una apertura, perché non si sa mai, l'incontro che può essere un incontro banale può invece cambiare la vita, cambiare il modo di fare affari, e ecco, questa apertura mentale penso che sia necessaria, ma sono convinto che sempre di più. Noi dobbiamo stamattina demolire un po' anche le convinzioni di chi non ci crede a tutto questo. Allora sentiamo un po' le difficoltà che ha incontrato Ernesto dalla provincia di Treviso, che salutiamo. Artigiano in che settore, Ernesto? Benvenuto. Si è stancato di aspettare. Ernesto, ci sente? Sì, pronto. Eccoci, sì, buongiorno, ecco, ci dica. Sì, sono un tappezziere, un artigiano tappezziere. Allora, ha provato a fare rete d'impresa lei? Sì, no, io la faccio tutti i giorni, diciamo, con chi collaboro, col falegname, con il decoratore, quindi vorrei spezzare una lancia, gli artigiani tra loro collaborano. Mm. Abbiamo cercato di fare rete anche per condividere spese e costi, abbiamo cercato di dividere un laboratorio, di mettersi in due e di essere più visibili. La cosa non è fattibile legalmente in Italia. Mm. Siamo bloccati da mille norme che non ci lasciano lavorare per non andare. Aspetti poi... lì Ernesto, sì. mi risento un attimo, ho il rientro dalla mia cuffia. Castagnetti, allora, poi tra l'altro lei so che è veronese, potrebbe anche andare a trovare Ernesto e tutti i suoi colleghi lì vicino, di fronte ad una platea che non appena lei comincia a raccontare quanto sono belle le reti d'impresa le contestano immediatamente l'aspetto, non si può fare, è tutto difficile, come... Non lo so, la prima guida che darebbe ad Ernesto, l'abbiamo sentito poco, naturalmente dovrebbe raccontarci un po' meglio il suo settore. Guardi, oggi solo lo 0,18% delle imprese in Italia partecipa ad una rete, questo lo dobbiamo dire, è pochissimo. Pochissimo. Abbiamo 10.000 imprese su quasi 2.000 contratti. Stanno crescendo, stanno aumentando, quindi oggettivamente le difficoltà che l'ascoltatore dice ci sono tutte. Il punto è non fermarsi perché le soluzioni si trovano. Innanzitutto serve un obiettivo, e un obiettivo non di breve periodo ma di medio-lungo periodo. Quindi se delle imprese si mettono assieme per un piccolo cabotaggio, per un piccolo risparmio, per una casualità di collaborazione, non funziona. Giustamente il tappezziere si trova spesso a lavorare nei cantieri collabora con il falegname, con gli altri artigiani, quindi loro vivono nella collaborazione, ma è una collaborazione di breve periodo, limitata a quel cantiere. Non esiste un piano per andare a chiedersi e quindi poi anche a realizzare come la singola organizzazione, seppur semplice, possa in un medio-lungo periodo diventare più competitiva. Quindi dobbiamo spostare un pochino avanti il nostro sguardo e poi definito l'obiettivo finale a un anno, a due anni, a tre anni, chiedersi dove vogliamo essere fra due anni, ripercorrere a ritroso questa strada risolvendo un problema alla volta, perché poi, i problemi ci sono. Certo, stavo pensando che magari come dire, la prima rete non funziona, forse perché può anche non esserci affinità nei caratteri, in tante cose, si può anche cambiare rete, no? Anche lì credo che sia una questione di tentativi. E denari. Abbiamo scomodato persino gli articolo 31, Laura, mi ricordo male, sono loro, no, a cantare questa canzone. Di imprese eccezionali, ma soprattutto di imprese normali, delle piccole e medie imprese così importanti per il tessuto produttivo italiano e delle reti che possono creare, stiamo parlando oggi a Cuore e Denari. E allora 800 24 00 24, il numero verde per raccogliere le vostre testimonianze. Abbiamo commentato poco fa il caso dell'ascoltatore di Treviso, artigiano, il settore della tappezzeria, che dice insomma non riesco, ci sono troppi vincoli burocratici. C'è Elisabetta su Twitter che ci scrive: io a Roma sto lanciando un business group di utenti romani di LinkedIn per aiutarci a vicenda, primo evento 17 dicembre, chissà cosa faranno, dobbiamo andare assolutamente a trovarli. Siete bravi a fare rete, Monica ci si prova, ci racconta sempre su Twitter. Emanuele, molto interessante, il teamwork è tra gli aspetti più delicati della vita in azienda. Professor Mezzadri, è vero? È vero perché si mette in gioco una relazione tra persone e come tutte le relazioni non sempre può andare bene, come diceva anche lei prima, a volte bisogna fare dei tentativi, e in questo vedo un forte parallelismo col mondo delle start-up. Non è detto che la prima idea che uno ha in mente sia quella definitiva, ma anzi l'idea cambia, molto spesso va abbandonata, ma comunque tutta l'esperienza si accumula per poter far sì che poi quando l'idea è quella giusta, questa possa effettivamente sbocciare. E penso che nel lavorare insieme, nel fare rete, sia fondamentale anche questo. Dottor Castagnetti, quali sono invece le caratteristiche di un contratto di rete? Quali sono i punti fermi, i cardini sui quali poggia? Intanto la parola, è un contratto, ecco. È un contratto, e questo segna subito la differenza dalle normali collaborazioni. Teniamo conto che tutte le nostre piccole e medie imprese vivono all'interno di contesti, di relazioni e collaborano con altre. Non si spiegherebbe altrimenti come per decenni siamo stati anche capaci di primeggiare in tantissimi settori in tutto il mondo. Quindi piccole imprese hanno nel sangue il fatto di mettersi in relazione con altri, ma questo dall'interno di normali relazioni tra cliente e fornitore. Fare un contratto significa invece impegnarsi a svolgere un programma di lavoro comune. Quindi il cuore del contratto di rete è proprio il programma di lavoro, che viene esplicitato in maniera molto chiara come una serie di azioni, di responsabilità, di attività che ciascun componente della rete deve svolgere per raggiungere quegli obiettivi strategici a cui legare la competitività dell'impresa. Spesso sono dei percorsi di 1, 2, 3 anni, quindi non è una cosa che inizi subito, certo, e subito realizzi. C'è un percorso di cambiamento. Per tornare ai nostri artigiani di prima, sto seguendo una rete a Verona di artigiani, si chiama Crea. Stiamo facendo con loro un sacco di lavoro, soprattutto anche a livello formativo. Ecco. Perché sono piccole imprese, piccolissime attività. Per mettersi insieme hanno bisogno, ad esempio, di un linguaggio comune. Abbiamo dovuto capire come fare i preventivi insieme. Ma a quel punto, quando parlavamo di costi, uno usava certamente la sua modalità. Benissimo, ma quando anche il linguaggio, quando parlavamo di costi, parlavamo di cose diverse. Quindi abbiamo dovuto insieme con questi piccoli imprenditori tornare tra i banchi di scuola ed è stato veramente ed è affascinante. Hanno imparato a distinguere un costo dall'altro, a capire come i costi devono essere previsti, cosa vuol dire avere un margine, cos'è un ricarico, come fare un preventivo, come utilizzare gli strumenti di comunicazione, internet, i tablet, gli iPad. Oggi loro, quando li ho conosciuti qualche mese fa, si faticava a darsi un metodo di lavoro, oggi sono più bravi di me nell'utilizzare tutte le risorse che la rete dà a disposizione, condividono documenti sul cloud, stanno letteralmente cambiando. Infatti. E questa è una cosa stupenda . E sono dei piccoli artigiani. Bisogna partire intanto da un po' di volontà e da una domanda che potrebbe essere quella che ci fa Lorena da Carpi, provincia di Modena. Sono un'artigiana nella maglieria. È possibile in questo settore? Già si accende, ascoltandoci, una lucina. Professor Mezzadri. Io penso che non ci siano settori in cui non è possibile, perché la rete, la collaborazione ormai diventerà un must probabilmente, così come la pianificazione, come si accennava prima. Quindi nelle difficoltà di ogni giorno riuscire ad alzare lo sguardo e a proiettarsi per i prossimi 2-3 anni penso che sia fondamentale. Per rispondere alla domanda, non ci sono settori in cui questo non si può fare. Infatti bisogna vedere naturalmente se si ha la sensazione che il prodotto che si produce è richiesto, se c'è necessità o se magari bisogna anche un pochino riconvertire il proprio standard produttivo. Sentiamo Mario da Torino che ci racconta, credo, di una buon network di cui fa parte. Mario, buongiorno. Buongiorno Mario. A tutti voi. Benvenuto. Sì. Ok. Sì, io praticamente ormai da quasi 2 anni faccio parte di un network che si occupa proprio di soddisfare un po' quelle che sono le esigenze di quelle che sono le imprese medio e piccole. Io vi faccio giusto un esempio perché ci vorrebbe chiaramente un appuntamento per approfondire il tutto, ma aziende che entrano anche solo a breve termine, parlo di un'azienda che praticamente trattava condizionatori d'aria, okay, quindi oltretutto quest'estate non è stata poi neanche così calda dove poter magari Mario. Morale della favola, bisogna inventarsi qualcosa per la pioggia. Mario, adesso poi magari ne parliamo. Sto scherzando, chiaramente. Comunque, morale della favola, questa azienda che è entrata in questo circuito, in un solo mese ha aumentato il suo fatturato di 45.000 euro. Semplicemente perché ci sono oggi, e io sono uno di quelli, clienti che cercano solo ed esclusivamente queste imprese, che si convenzionano perché l'esigenza che hanno le imprese e l'esigenza che hanno i, diciamo, consumatori sono quelle di trovare aziende che fanno degli sconti e le stesse imprese di avere più clienti per aumentare i loro fatturati. ci siamo fin grazie, qua, grazie, grazie molte Mario per la sua testimonianza. Quello che posso capire, professor Mezzadri, una volta che comunque poi si intraprende questa strada e si intravede il piccolo primo successo, è difficile, non si torna indietro. 5 secondi. Non si deve tornare indietro, tanto si deve perseverare, migliorare e essere sempre attenti a cambiare, perché sono le intuizioni che determinano il successo o l'insuccesso. E denari. Avete versato tanto sudore su questo campo e vedrete che pagherà. So che vi sono sembrato duro anche quando non ce n'era motivo, ma l'ho fatto perché conosco bene il vostro potenziale. Fuori da questa palestra credono che non abbiamo chance, che siate solo giocatori che le grandi università non volevano, ma quella gente non vi conosce. Io sì. Voi avete talento, siete disciplinati e vi preoccupate del compagno che avete accanto, ed è per questo che vinceremo a partire da domani. Eccoci ritrovati a Cuore Denari in diretta in trasferta a Roffiera per Matching. Se volete venirci a trovare, siamo al padiglione 22, stand 01, ci vedete benissimo, insomma il nostro verde della radio lampeggia quasi in questo padiglione. Noi oggi stiamo lavorando su un tema che è molto caro a molti piccoli imprenditori italiani. Stiamo parlando di reti di impresa, questa nuova modalità di aggregazione, di consorziarsi, sia per affrontare la crisi ma anche per sfidare nuovi mercati. Perché no? Perché non è detto che poi l'aggregazione come dire, nasca castagnetti dalla necessità per forza di affrontare la crisi. Magari ci si può consorziare in un momento in cui tutto va bene, solamente perché si vuole crescere, andare in altre aree, magari espandersi. Ma io ultimamente uso pochissimo la parola crisi, perché usare la parola crisi è un alibi, nel senso che sotto sotto uno pensa che finisce. Quindi ho smesso di usarla, dico che è un nuovo contesto competitivo. Ecco. Questo posiziona subito l'imprenditore, l'impresa, a dover rispondere comunque a un contesto. La crisi sicuramente ha accentuato questa domanda, come anche però ha azzoppato molte imprese che oggi sono molto deboli, e non è detto che mettendo assieme due debolezze si riesca ad ottenere una forza. Quindi anche nelle reti, nel mettersi insieme, è chiaro che dobbiamo prestare molta attenzione a mettere insieme organismi che hanno una loro vitalità, certo. Non solo di idee ma anche di struttura aziendale, perché capita che la singola impresa, magari dotata di un buon marchio, di un buon nome sul mercato, anche di molti progetti, per le condizioni in cui il suo mercato è venuta a caratterizzarsi in questo periodo, possa avere dei problemi, e spesso sono problemi tipo finanziari. Allora, con quest'ultima domanda la salutiamo, perché so che lei deve andare appunto ad un altro evento nell'ambito di Matching. Rimane con noi il professor Mezzadri, ma nel frattempo ci ha raggiunto un altro ospite. Intanto Castagnetti, grazie. Grazie a tutti voi, nostro buon lavoro. Nostro esperto di reti di impresa, intanto buona giornata, buon proseguimento di Matching. Saper lavorare in squadra è importante, lo avete sentito anche dalla clip che abbiamo scelto per la ripresa del nostro programma, dal film Glory Road, ma non è sempre facile. E allora, come abbattere gli ostacoli mentali in questo senso? Buongiorno e ben ritrovato al professor Giampaolo Perna, direttore scientifico e primario presso la casa di cura San Benedetto ad Albese con Cassano, Como. Buongiorno, e professore, benvenuto. E ricordiamo anche che lei insegna a Maastricht in Olanda e a Miami. Allora, che cosa le suggerisce, professor Perna, il tema che abbiamo scelto per oggi per Cuore e Denari? Perché effettivamente generalmente il gioco di squadra lo associamo alla ambiente sportivo, no? Oggi lo portiamo invece nell'ambiente, diciamo, a livello lavorativo. Ma io penso che sia in realtà pertinentissimo, perché il gioco di squadra vuol dire da una parte dover cercare delle compatibilità che siano adatte. Sono d'accordo con l'ospite di prima dicendo che non basta mettere insieme delle persone, bisogna trovare persone che siano complementari con le nostre abilità, quindi in qualche maniera conoscere i nostri limiti e le nostre potenzialità e cercare qualcuno che compensi i limiti e possa sfruttare al meglio le potenzialità. In questo caso è davvero molto simile a un ambiente sportivo. Certo. Quali sono le caratteristiche magari individuali, professor Perna, che possono essere potenziate nel momento in cui ci si decide a voler appartenere ad una squadra? Guardi, fra tutte le cose direi la consapevolezza, cioè quando, questo è un esempio personale, io ho giocato al football americano molto tempo fa e quello che ho imparato è che il signore, come dire, l'uomo di linea che ci protegge, che è quello davanti, che non prende mai premi, che nessuno guarda, nessuno porta sui giornali, è quello che ci salva la vita. Quindi ci insegna a considerare tutte le persone, anche quelle apparentemente meno visibili, come essenziali per il nostro successo individuale. No? Quindi il lavorare in gruppo vuol dire rendersi conto che per raggiungere gli obiettivi abbiamo bisogno degli altri. Le caratteristiche individuali, al di là del talento e della disciplina, che sono cose importanti, sicuramente una responsabilità e un senso etico di quello che si fa viene fuori solo dal lavoro di gruppo. Ricordiamoci che in alcune nazioni tipo gli Stati Uniti fin da piccoli si gioca in squadra, fin da piccoli si impara che si vince o si perde in squadra e quello crea sicuramente una consapevolezza diversa. Professor Perna, noi nel corso della trasmissione abbiamo parlato di tanti settori produttivi italiani, abbiamo parlato di fornai, di magliaie, di tanti comparti. Insomma, nel suo settore è facile fare, come dire, rete d'impresa, aggregarsi magari per portare avanti certi studi, certe iniziative? Nel vostro campo come ci si muove in questo senso? Ma il nostro campo è essenziale perché singolarmente nessuno di noi è in grado di avere le informazioni, la formazione per coprire il tutto. Quindi l'unica maniera per fornire alla persona esterna, al paziente, un intervento ottimale è quello di avere diverse persone che portino le loro competenze insieme e che collaborano. Solo in questa maniera qui raggiungiamo l'obiettivo che è l'eccellenza, altrimenti rimane quello che è un narcisismo individuale che però porta da nessuna parte. Professor Mezzadri, ha sentito quando il professor Perna diceva fare gruppo ha anche un senso etico. Secondo lei il manager che in qualche maniera si candida ad appartenere ad una rete di impresa percepisce questo spirito, lo spirito etico anche? Dipende dai contesti, secondo me, nel senso che molto spesso il primo input per la costruzione di una rete è una necessità immediata legata all'aspetto economico. Soltanto successivamente forse può entrare in gioco questo aspetto etico. E, però mi piace molto il paragone, essendo abbastanza sportivo, tra il mondo dello sport e il mondo dell'impresa. Lavorare insieme, calza, dice lei, dove ciascuno valorizza, compensa i limiti e valorizza le potenzialità dell'altro. E oltretutto, se posso, questo è uno degli elementi che viene valutato di più quando si valuta una startup, ancora prima dei flussi di cassa, dell'aumento del valore delle quote prospettico di una startup. Chi valuta le startup valuta la capacità del team di lavorare insieme e anche un po' la propria, come dire, ansia, smania competitiva in qualche modo. 800 24 00 24, continuate intanto ad intervenire in diretta, raccontateci un po' il momento in cui avete scelto la libera iniziativa imprenditoriale, professionale, che cosa vi ha mosso, e anche nel momento in cui magari giocando da soli avete percepito invece una necessità che fosse arrivato il momento di fare rete. Insomma, quali sono gli stimoli che vi hanno mosso in questa direzione, magari li commenteremo insieme al nostro Giampaolo Perna. Intanto sentirei William D'Alecco. Purtroppo è andato via Castagnetti. William, vediamo se riusciamo anche noi a risponderle. Benvenuto. Benvenuto e grazie, Deborah. Io sono un diversamente giovane pensionato, sono un neurochirurgo di 65 anni che si ritrova ad avere una competenza, perché ce l'ha cercata, di tipo bioingegneristico da diversi anni, al punto tale che ho fondato una piccola azienda che produce, inventa, brevetta dei dispositivi medici in campo neurochirurgico. Ecco, io sono un po' una voce fuori dal coro, perché per me la rete di impresa è ho cercato di farla, ma mi sono sempre trovato in difficoltà, che tutti pretendevano e volevano essere i primi, volevano comandare, eccetera. Per cui io sono invece un sostenitore dell'individualismo, ma credetemi, cioè non to cure, nel senso che io faccio una rete di impresa, nel senso che io la mia ricerca e sviluppo è itinerante. Io vado in tutte le aziende della Brianza e in loro stimolo entusiasmo, stimolo conoscenze, travaso conoscenze per arrivare ad un risultato che poi faccio fare a terzisti che poi metto sul mercato. Questo io Io ho cercato di trovare delle soluzioni, appunto perché sono incompetente da un punto di vista certamente manageriale, eccetera, però ho sempre trovato delle grosse difficoltà, per cui restando nel mio piccolo, ma senza voler dire piccolo e sminuirlo, diciamo diamo delle soluzioni, perché il mio brand è soluzioni in cerca di problemi. Questa è un po' la cosa che ci contraddistingue. Io quindi ho dei collaboratori esterni con cui ovviamente ci si confronta in continuazione, con i quali diciamo creo una rete di impresa, ma non quella che viene definita e diciamo sostenuta a tutti i costi, che sono coloro che poi giocano sulla rete di impresa, cioè vogliono pretendere di governare la rete di impresa con dei contratti che magari l'aspetto poi... l'aspetto William che stavamo toccando proprio prima della nostra pausa, come dire, in termini teorici è certamente un principio molto bello quello di aggregarsi, di fare delle cose insieme, come dicevo, sviluppare nuovi business, affrontare, aggredire nuovi mercati. Poi di fatto, professor Perna, qui vengo anche a lei, il gruppo non si crea dall'oggi al domani, anzi qualche volta, proprio per tutta una serie di resistenze, non si crea affatto, non è detto che poi, ecco, come dire, anche se c'è la volontà, si riesca a portare a termine l'obiettivo. Il concetto del narcisismo, sì. No, cosa vuol dire narcisista? Vuol dire una persona che da una parte ha un motore potente, perché è molto ambizioso, d'altra parte ha quella senso di onnipotenza personale, per cui tutti vogliono essere i migliori, tutti vogliono essere i primi. È chiaro che se noi abbiamo in un gruppo un narcisista pesante, questo non avrà un'azione collaborativa. Io credo, io personalmente, quando devo selezionare i miei collaboratori, se c'è uno bravissimo, no, ma che è troppo narcisista, io non lo faccio entrare in gioco. Questo perché so che mi distruggerà il gruppo, quindi creerà competizione, attaccherà per mettere in se stesso in rilievo, quindi sicuramente i gruppi, il nostro io individuale deve essere tenuto e vada, ma che cosa? Dalla controprova nella realtà che da soli si va da nessuna parte, che in realtà da soli si possono fare tante cose, ma le grandi imprese dell'umanità non sono mai state fatte da un singolo, sono state fatte da persone che insieme hanno collaborato e poi magari c'è stato chi ha fatto il gol finale, però c'è sempre dietro la partita. Faccio un esempio brutale proprio di ieri, la Svizzera ha vinto la Coppa Davis di tennis, sì. Certo che c'era Federer che era il campionissimo, ma alla fine è stato il suo, come dire, il suo giovane che è quello che ha tirato su nei momenti di crisi la situazione e ha permesso a tutti di funzionare bene. Bisogna essere un po' umili per poter lavorare assieme. Infatti, allora, tra l'altro, quando si fa formazione ai manager, anche prima, professor Mezzadri, diciamo magari proprio per così insegnare come si fa la startup, ma poi magari in un passaggio successivo quando si deve insegnare un po' a fare rete d'impresa, come si fa ad insegnare l'umiltà? Questa è una bella domanda ed è anche la sfida forse che ci aspetta. Io penso che la formazione manageriale, da quello poi l'esperienza che vedo nel Executive Master per le PMI che seguo come Altis, penso che bisogna mettersi in gioco, quindi lavorare veramente insieme, far sperimentare la concretezza del fare gruppo e attraverso questo insegnare l'umiltà, quindi meno teoria e più pratica, certo. Soprattutto quando è una formazione per i manager. Professor Perna, qual è il momento, qual è la strategia e la ricetta per fare in modo che quello che è naturalmente un limite, l'individualismo, dicevamo poco fa, no, è quell'ostacolo che chiaramente impedisce di essere una parte attiva ed importante magari di una rete, che è, come dire, il tema che stiamo affrontando oggi, come si fa a superarlo nel momento in cui lo si percepisce nettamente, se ne ha la consapevolezza, questo è il mio limite, io sono magari l'anello debole di quella catena che dovrebbe essere una rete di impresa, no? Come faccio a fare un passo avanti per fare in modo di diventare invece una risorsa costruttiva di questa rete? Io sono d'accordissimo con il collega che dice che bisogna fare delle prove pratiche, cioè la teoria funziona molto poco, quello di creare delle situazioni in cui una persona da una parte si renda conto che da solo non arriva all'obiettivo e dall'altra parte si renda conto che il suo apporto comunque è essenziale per raggiungerlo, è cruciale, e noi impariamo molto sulla nostra pelle da quello che facciamo piuttosto che da quello che ci dicono o quello che pensiamo, quindi l'azione secondo me è l'unica maniera, quindi allenarsi nel concreto e avere buoni maestri capaci di creare le situazioni giuste che ci permettono di vedere questi entrambi gli aspetti. Avere dei maestri giusti, dice lei, anche quelli bisogna individuarli. Eh sì, avere maestri giusti, beh, oddio, di persone che che hanno mostrato delle abilità, dei mentori, diventano un elemento cruciale per ognuno di noi. Bisogna sceglierli bene, ma io credo che ci siano tanti, anche perché le persone che in qualche maniera, tra virgolette, sono considerate pensionate, sono quelle persone che hanno un'esperienza straordinaria e che nel loro ciclo di vita non vogliono fare altro che proprio dare una mano a qualcuno un po' più giovane per crescere, quindi bisogna cercarle innanzitutto. Ecco, e quindi diciamo da qui a, come dire, ad affrontare anche il tema di un leader adeguato, di una squadra importante, no? Cioè, come dire, bisogna saperlo fare, bisogna naturalmente che il gruppo ti riconosca anche. Beh, questo vuol dire, anche lì facciamo un esempio dello sport, ma è interessante. Chi vince, tornando al football americano, che magari non è così noto, ma è interessante come proprio tipologia del team, chi vince il campionato alla fine dell'anno regala un anello d'oro a tutti i componenti della squadra. Cioè bisogna essere capace di condividere la vittoria, di condividere la visibilità, no? Questo è sicuramente l'elemento che dà quella credibilità, per cui ogni persona sente di far parte del gruppo. Se il team leader lascia sempre il faro puntato su se stesso, perde quello che è il senso del gruppo. Certo. Ovviamente ci vuole anche empatia, ma io credo che l'empatia è un concetto teorico se nella pratica uno non dimostra ai propri collaboratori di essere quello in grado di condividere la vittoria o di tirarsi sulle maniche quando c'è bisogno. Giovanni da Brescia, 800 24 00 24, i nostri ascoltatori ci raccontano quella che è stata la loro esperienza, rete sì, rete no, insomma l'aggregazione quando funziona e quando invece in qualche maniera non ci permette di raggiungere gli obiettivi che magari ci eravamo immaginati, no, che questa partecipazione ci potesse far raggiungere. Giovanni, benvenuto. Ecco, buongiorno. Allora cercherò di essere velocissimo in maniera tale che non sia su tre elementi. Uno, c'è il contratto di rete, che penso che sia uno strumento giuridico poco formalizzato, ma perché è importante, perché quando due società con tutti i problemi di individualismo eccetera che avete detto si mettono insieme, ci sono le stesse difficoltà di quando due persone diventano socie o un marito diventa moglie. È delicatissimo da quel punto di vista lì, però quello strumento giuridico, siccome l'unica cosa che conta alla fine sono i soldi, permette di avere dei bilanci proprio separati rispetto al proprio bilancio aziendale e coniugato per quella parte di attività dell'azienda, ma lì ci sono sicuramente persone che lo sanno meglio di me, che possono permettere così alle due imprese di superare quelle, diciamo, di diffidenze reciproche rispetto al fatto che uno ci possa guadagnare di più o rispetto al fatto che uno si guadagni di meno, perché al di là di tutti i discorsi è sempre dopo giustamente il guadagno. In generale invece c'è tutto uno spostamento, ma per me è giusto, anche del lavoratore dipendente, non a fare una retribuzione oraria, ma una retribuzione a prestazione. Io nella mia azienda, quando parlo con tutti, cerco di dire, se potessi scrivere, ma magari verrei ascoltato, dell'egoismo solidale. Cioè, cos'è l'egoismo solidale? Io, anche lei, quando parlo con uno che ad esempio è un grafico, gli dico, tu cerca di essere egoista, di essere sempre più bravo te il più possibile, a me non mi interessa dopo se lavori il sabato, certo, se lavori la mattina alle 7 o alle 8. E anche nella retribuzione economica trovare il confine dove anche tu devi essere egoista, perché in squadra dopo ci guadagniamo tutti, perché se il tuo grazie Giovanni, grazie, purtroppo dobbiamo salutarla, la telefonata bella arriva sempre all'ultimo minuto. Professor Perna, la lascio concludere, le piace il concetto di egoismo solidale? Sì, ma è pericoloso perché ognuno deve dare il 100% al proprio funzionamento, essendo consapevole che guadagnerà di più insieme, che fa un po' botte col concetto egoismo. Direi quello della solidale più che egoismo, io direi una forza solidale individuale, no, da mettere a servizio del gruppo. Di egoismo è una parola hard, no? Cioè, a lei Mezzadri piace? 5 secondi per concludere. No, perché strido un po' le convergenze parallele. Preferisco anch'io il singolo al servizio del gruppo, il concetto di gregario del Tour de France. Grazie ad entrambi per essere stati con noi. Cuore e Denari in questa prima giornata matching termina qui. Noi ci ritroviamo domani. Buona giornata a tutti.